Sport e motori con Massimo Di Scienza. Buon pomeriggio, buona domenica amici di Radio 24, non perdiamo tempo perché sarà una puntata ricchissima visto che è appena terminato poco più di un'ora fa il Gran Premio di Valencia classe MotoGP, ultima gara della stagione del Motomondiale con il successo, il nono della stagione di Jorge Lorenzo, e siamo a poco più di 20 minuti dall'avvio della penultima gara del Mondiale di Formula 1, il Gran Premio del Brasile di Interlagos. E allora subito i nostri riferimenti per parlare in diretta con noi, ovviamente la domanda oggi non può che essere questa: chi vincerà il Gran Premio del Brasile? Alonso ce la farà a scalare le posizioni? Partirà dal quinto posto in griglia? Oppure vedete meglio Webber o Hamilton o Vettel? Chiamateci subito all'800 2400 24, oppure mandate i vostri messaggi SMS al 349 238 6666, il vostro favorito. Chi vincerà il Gran Premio del Brasile di Formula 1? E chi vincerà il Gran Premio del Brasile di Formula 1? Io lo chiedo subito ai nostri abituali compagni di viaggio. Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Direttore, chi vince? Una domanda più facile, no? No, c'è no, questa, c'è solo no, questa. Oggi devo dire che, allora, già il fatto che ci sia bel tempo, quindi questo dovrebbe togliere le illusioni a Hülkenberg, tanto meno uno. Questo però cosa vuol dire? Che la chiave, mi sembra, in questo momento sia la velocità con cui qualcuno riuscirà a passare il bravo pilota tedesco della Williams, perché uno che se ne libera in fretta e gli altri che perdono un po' di tempo, anche questo può pigliare un margine poi imprendibile. Direi che un po' la chiave è su questa operazione qui, almeno mi sembra. Quindi i primi giri saranno determinanti. Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Ciao Carlo, chi vince? Cavicchi. È probabile. Chi vince, Carlo, secondo te? Scusa la battuta, dai, ci sta, perché è impossibile, oggi. Sono d'accordo sull'analisi per quanto riguarda Hülkenberg, perché abbiamo visto nelle prove libere del venerdì che aveva un passo decisamente più lento rispetto a chi si gioca il titolo, e aveva un secondo e mezzo di ritardo, quindi sarà per lui una gara, insomma, poi da lasciare agli altri. Resta ovviamente altissima l'attesa per la prima curva, per quella S a imbuto, a sinistra, a destra, giù in picchiata. Insomma, con Hülkenberg davanti può succedere di tutto, ma soprattutto può succedere di tutto con Webber che tenterà l'attacco a Sebastian Vettel, con Hamilton che all'ultima chiamata dovrà tentare qualcosa, dovrà cercare di stare davanti. Alonso forse può essere spettatore al via, ma non troppo, perché dietro a Barrichello, Kubica, Schumacher, insomma, credo che la tensione sia altissima per la partenza. Poi, se la partenza va regolare, Hülkenberg può essere passato tranquillamente dagli altri, e poi bisogna vedere cosa succede con un passo gara Ferrari che venerdì era superiore a quello degli altri. L'analizziamo ovviamente la gara, almeno cercheremo di farlo e di prevedere i possibili sviluppi tra poco. 349-238-6666, continuate a mandare i vostri messaggi SMS, chi è il vostro favorito, siete d'accordo con l'analisi di Cavicchi e Vanzini? E però, Carlo Vanzini, non possiamo non aprire dedicando 2 minuti 2 anche alla gara della Motomondiale, ultima gara della stagione in MotoGP, successo di Lorenzo che è arrivato alla quota record di 383 punti in classifica. È vero che quest'anno è stato un mondiale, come dire, ipertrofico, però insomma il risultato è davvero straordinario. Secondo graduatoria nella classifica mondiale ha mantenuto la sua posizione Pedrosa, terzo Valentino Rossi, terzo anche al traguardo. Però Carlo, al di là di tutto, forse quello che rimane del pomeriggio di Valencia è quel abbraccio, come dire, strappalacrime tra Valentino Rossi e la sua Yamaha e la maglietta Bye Bye Baby. Insomma, anche noi duri di cuore ci siamo un pochino commossi a vedere quell'immagine lì, no? Ho sentito Guido Meda che era molto molto emozionato. D'altronde, quando racconti uno sport sei molto coinvolto, e anche da casa, insomma, vedere quell'immagine, un'immagine che ha colpito molto, l'ha studiata bene, perché ovviamente Valentino Rossi non fa mai nulla per caso, l'ha studiata bene questa chiusura della sua avventura con la Yamaha. Un abbraccio bellissimo, era già stato molto commovente quello originale, quello al primo anno, quando insomma in tanti credevano che Rossi non potesse miracolare la Yamaha, invece ci è riuscito. Diciamo che Valentino Rossi ha chiuso secondo me nel modo migliore, abbracciando la sua moto numero 46 dopo 46 vittorie con la Yamaha. cioè, è impressionante se ci pensiamo, sì, riuscire a portare il suo marchio di fabbrica anche con, come numero di vittorie con quella moto è qualcosa di impressionante. Poi la gara ci ha regalato quello che è il futuro di questa MotoGP, Stoner, Lorenzo, Rossi, Pedrosa, che ha combattuto finché il fisico ha retto, insomma, altri gli italiani dove ci siamo, sì, andiamo verso una stagione, quella 2011, che sarà ancora più intensa e più bella, e noi la seguiremo ovviamente minuto dopo minuto. Carlo Cavicchi, il rapporto tra Valentino Rossi e la Yamaha ti ricorda qualche precedente in Formula 1, in quattro ruote? Certo, abbracci ne abbiamo visti pochi, forse tra una monoposto e un pilota alla fine di una stagione, però insomma c'è un paragone. La verità, se andiamo indietro nel tempo, erano magari i piloti che l'avrebbero fatto, erano tanti, però a un tempo non si usavano queste cose, si facevano più in privato che in pubblico, quindi non c'è un discorso del genere. Forse bisogna dire che anche Schumi, quando lasciò la Ferrari, che sembrava per sempre con la Formula 1, fece qualche cosa di abbastanza simile, ma allora era proprio un addio generale, non era solo la macchina che gli aveva permesso di vincere 5 mondiali, tutti i record, era proprio anche un addio alle corse, quindi non è esattamente la stessa cosa. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi SMS. Federico saluta i nostri ospiti, il grande Carlo Vanzini e Cavicchi. Oggi credo vincerà Weber ma anche Alonso non mollerà, questi i primi pronostici che ci arrivano via SMS. E allora ritorniamo alla Formula 1, perché non possiamo che dedicare ampio spazio del nostro appuntamento al pre-gara del Gran Premio del Brasile, tornando un pochino alle prove di ieri. Detto che questa trasmissione non utilizzerà mai la frase l'incredibile Hulkenberg, ed è assolutamente vietato da qui alla fine perché l'abbiamo sentita talmente tante volte, però direttore Cavicchi, una Williams che torna in pole dopo 5 stagioni fa un certo effetto, un caso secondo te oppure qualcosa di più, comunque il, come dire, un marchio importante per il buon lavoro fatto dal team? È il coronamento di una stagione super, nel senso che la Williams con la scommessa Cosworth sembrava una squadra dove essere a livello, non dico delle nuove arrivate, ma lì vicino. In realtà il Cosworth si è dimostrato un motore super. La Williams, con una squadra di ottimi piloti, senza avere forse i migliori del lotto, è andata spesso a punti, e questo dice che hanno fatto una buona stagione. Ieri era la condizione giusta per un pilota al suo primo anno di mettersi in luce, non avendo niente da perdere, in quelle condizioni lì è stato superbo. Credo che oggi farà più fatica, ma questo non toglie niente alla Williams. Come dico che oggi è un peccato, da un lato, che non piova, nel senso che ci perdiamo sicuramente un contendente che ieri andava fortissimo, che fa ridere alla fine di questa stagione dirlo, ma è stato Schumacher. Ieri Schumacher è stato con condizioni infide finché ci sono state, che non è asciugato, dove torna a essere là indietro, è stato veramente piacevole da vedere. E oggi partirà ottavo sulla griglia di partenza. Ma con questo fondo qui non conta più. Non conta più nulla. Carlo Vanzini, anche tu pensi che Hulkenberg sarà poco più che un ostacolo da passare alle prime curve, oppure pensi che almeno all'inizio possa dire la sua? Beh, nel corso della stagione ha dimostrato comunque di avere le spalle larghe, non è uno facile da passare, l'ho dimostrato a Monza con anche i due Red Bull alle spalle, quindi la situazione l'ha già vissuta, quindi cercherà assolutamente di giocarsi le sue chance, è consapevole ovviamente che non deve creare problemi alla partenza, assolutamente deve fare una partenza pulita, e poi è anche consapevole, credo, che poi sul rettilineo in salita quindi di San Paolo, insomma, ci siano poche chance per lui di poter resistere, però insomma deve assolutamente godersi il momento, e forse anche è stato questo il sigillo sul contratto per la prossima stagione, visto che si parlava di Maldonado al suo posto, il campione della GP2 che portava in dote 15 Parichi milioni sponsor. Però insomma è una partenza delicata, perché è assolutamente anomala, ti potevi aspettare di tutto, ma non certo di avere, lascia stare Hulkenberg, ma la Williams in pole position a questa penultima gara della stagione. 800 24 00 24, il numero per raggiungerli, per parlare con noi se avete voglia di raccontarci chi è il vostro favorito per la gara di oggi e quindi anche per il titolo mondiale. 349-238-6666 per i vostri SMS. Adesso traffico, ma torniamo subito. Sport e motori. 800 24 00 24, oppure sms al 349 238 6666. Sempre con noi Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, a 13 minuti dal via del Gran Premio del Brasile. La tattica di Fernando Alonso, quale strategia per il pilota della Ferrari? Ricordiamo, deve difendere 11 punti di vantaggio su Mark Webber, 21 su Hamilton, 25 su Vettel, e poi Button ormai tagliato fuori, meno 42, più altre disavventure varie alla vigilia del Gran Premio, su cui comunque sorvoliamo perché non fanno parte della tecnica, diciamo così. Direttore Cavicchi, che Alonso ti aspetti? Attendista all'inizio, lascerà sfogare i ragazzi? Stagione, no. In questo momento qui non c'è tattica che tenga, qui il gioco lo fanno quelli che si devono giocare qualcosa, cioè i quattro in lotta. Button non conta più, certo. I quattro in lotta per il mondiale ovviamente sono loro, gli altri saranno tutte comparse, e sempre così cercheranno di fare tutti i meno danni possibili, perché quelli che se lo devono giocare, e quattro a due gare della fine, sono un dato incredibile. Non ci sarà tattica, bisognerà vedere come va anche la casualità, come giocano le cose. Ripeto, secondo me non c'è tattica, c'è solo vedere chi passa per primo Hülkenberg, se nel frattempo che un altro lo superi quanto può prendere di margine. Credo che, salvo, ripeto, un incidente al via, roba che adesso non voglio nemmeno pensare, no, certo, roba del genere, la chiave è solo quella, tutti sanno quello, dopodiché lui deve... Alonso cercherà di guardare bene cosa fa davanti Webber, ma nei limiti darà il massimo come tutti e quattro. Sono sicuro che qui non si bara più. Sei d'accordo, Carlo Vanzini, oppure ti aspetti un Alonso più attendista? Ma Alonso deve, come ha detto Stefano Domenicali poco fa, deve assolutamente portare a casa punti importanti, punti pesanti, che poi non sia lui davanti ai Red Bull può andare bene, ma deve assolutamente stare in zona Red Bull, in attesa di capire se i due della Red Bull o comunque Christian Horner ha dato ordine in scuderia, perché non dimentichiamo che nel caso in cui dovesse Webber vincere la gara davanti a Sebastian Vettel e Alonso dovesse essere quarto, nuovo leader del mondiale diventerebbe nuovamente Webber, quindi da questa gara potremmo uscire con Hamilton leader del mondiale, con Webber leader del mondiale, con Vettel a pari punti con Alonso ma non leader per un minor numero di vittorie, insomma potremmo avere uno scenario molto molto particolare, quindi importante è gestire la tensione, e Alonso poco fa ha detto: non sono io ad aver la pressione addosso. Era molto rilassato, non deve esserlo troppo, perché secondo me si deve preoccupare soprattutto di quelli che arrivano dietro al via, perché ha Barrichello che è in Brasile, ha il compagno di squadra un pischello Hülkenberg che ha preso lui la pole position a casa sua con la stessa macchina, dietro c'è Kubica che è caldo, forse hanno giocato a poker ieri Kubica, Alonso e Barrichello si sono messi d'accordo, non lo so, e dietro c'è anche Schumacher che insomma le sue ruggini con Alonso le conosciamo bene. Direttore Cavicchi, le prime due curve abbiamo detto saranno fondamentali su un circuito che sulla carta abbiamo detto tutti favorisce la Red Bull. Sarà così secondo te oppure ci dobbiamo attendere sorprese? Io non sono assolutamente convinto che sia un circuito che favorisce la Red Bull, devo dirlo prima della gara, poi verrò ovviamente smentito. Ma ritengo che sia un circuito molto adatto alla Ferrari, perché è un circuito vero e la Ferrari ha un pilota vero, e poi la Ferrari è sempre andata benissimo qua, è veramente l'ultima grande pista della Ferrari questa, Abu Dhabi non ho idea di come sarà, se sarà per la Red Bull come dicono in molti, ed è possibile. Io qui credo che in condizioni gara, al di là della posizione di partenza che non è la migliore, il pilota che ha la macchina messa meglio per la gara è Alonso. Carlo Vanzini, e siamo al discorso strategie di scuderia. Detto che Massa, non abbiamo parlato fino a questo momento, parte dalla nona piazza, il nono tempo, e almeno all'inizio difficilmente si inserirà nei giochi che contano, in casa Red Bull cosa ti attendi? Ancora tutti contro tutti, oppure Vettel, al di là delle dichiarazioni della vigilia, un pochino il gioco di squadra lo farà? Io credo dipenderà molto dalla partenza. Vettel cercherà di mettere subito Hülkenberg tra sé e Webber per cercare di andare via. Nel momento in cui dovesse configurarsi l'ipotesi di una doppietta, bisognerà valutare la posizione di Fernando Alonso. Come ho detto prima, prendiamo ancora la situazione. Vettel primo, Webber secondo, Hamilton terzo, Alonso quarto, quindi eliminiamo per il momento Hülkenberg. In questa situazione Webber accorcerebbe le distanze chiudendo secondo, ma comunque sarebbe sempre dietro Alonso. Cedendo la posizione a Sebastian Vettel, Webber andrebbe ad Abu Dhabi da leader del mondiale. Va bene la follia, ma fino in fondo mi sembra un azzardo enorme. Ripeto, la Red Bull è padrona del proprio destino, perché con due doppiette e una vittoria di Webber nelle due doppiette può vincere il mondiale senza fare calcoli su Fernando Alonso. Capito Hamilton, invece, direttore Cavicchi, parte dalla quarta piazza, deve recuperare 21 punti rispetto ad Alonso. È vero, il mondiale non finisce comunque stasera, c'è un'altra gara, ma secondo te ha ancora reali chance? E il fatto che probabilmente tra i quattro ancora in corsa sia, forse ancora con Alonso, ma secondo me un po' di più, quello che ha maggior esperienza di questo tipo di bagarre, lo può avvantaggiare un po', insomma, il futuro prossimo venturo di Hamilton come lo vedi? Io non lo vedo bene, devo dire, ritengo Hamilton fenomenale, ma in Brasile non ha mai fatto delle gare, secondo me, all'altezza di altre piste, che sono altri tracciati, e non so, non la vedo molto difficile. Lui dovrà dare il massimo, che è la condizione in cui lui rende di più, però la vedo veramente dura. Non mi sembra che abbia la macchina migliore, non mi sembra che ci siano le condizioni migliori, e ha comunque una partenza dove deve guardarsi dietro da Alonso, che non gli farà ovviamente sconti, e davanti due che faranno di tutto. Non lo so, è capace di tutto, però non lo vedo così ben piazzato per il mondiale come lo vedevo, devo dire la verità, dopo Spa. Troppi errori nelle ultime gare, qualche... Sì, diciamo un errore, uno solo fondamentalmente, sì. Grosso, due anzi, no, hai ragione, due errori. L'errore che ha fatto quando era in testa, che è al safety car, è uscito in testa, era davanti ad Alonso, che era secondo me uscito dietro la safety car, e quello grave di Monza, direi. Quelli sono due grandi errori, perché a Singapore direi l'errore lo escluderei in maniera assoluta, lì la colpa, se c'è da dare una colpa in un incidente di gara, però la colpa semmai va data a Webber, non a lui. Vanzini, Hamilton fuori dai giochi? Sai com'è, io i piloti non li metto mai fuori, finché non c'è la matematica per me sono ancora tutti in gioco, anche perché, ripetiamo, bisogna vedere cosa fanno Vettel, Webber davanti, lui come si infila dentro nei giochi alla prima curva. Io Hamilton lo tengo sempre lì caldo, anche perché poi ad Abu Dhabi può andare molto forte, è andato molto forte la passata stagione in qualifica, insomma non lo escluderei ancora del tutto dai giochi, anche perché comunque Lewis Hamilton, è vero che in Brasile ha fatto delle gare disastrose, è vero che nel 2007 e 2008, quando c'era in palio il titolo, praticamente l'ha perso nel 2007 e praticamente l'ha perso anche nel 2008, se non fosse stato per quel sorpasso alla fine su Timo Glock. Quindi nei momenti culminanti la sua testa si chiude. Oggi è un esame di maturità, se oggi riesce invece a gestire la sua forza, perché è sicuramente uno forte, e tenere la testa aperta, allora può giocarsela ancora, però nelle prove libere venerdì abbiamo visto una Ferrari più competitiva. Ieri forse però Alonso è andato su un assetto un po' più sicuro per il bagnato, vedremo oggi con le velocità, ma ieri non era velocissimo il rettilineo Fernando Alonso rispetto alle prove di venerdì. Siamo partiti con un pronostico secco, chiudiamo con un pronostico altrettanto secco, io sono sicuro che sarete d'accordo tra di voi. Carlo Vanzini, mondiale finisce questa sera o aspettiamo ancora una settimana per assegnare il titolo? Aspettiamo una settimana. Io sono convinto che il direttore Cavicchi dirà la stessa cosa, direttore. Anch'io direi questo. Era sì. Una scommessa facile. Ci vuole proprio una congiunzione astrale che magari tutta Italia si augura, però onestamente è più difficile. Poi due anni fa, tre anni fa Hamilton aveva 17 punti di vantaggio, due gran premi dalla fine, è riuscito a perderlo, quindi quando si dava 10 punti al primo solo, quindi ci sta tutto, sempre lì ha ragione Vanzini. Tocchiamo tutto caro direttore, e a questo punto insomma il parroco di Maranello, secondo i nostri pronostici, questa sera può stare ancora tranquillo, ma vedremo come andrà a finire, ne parleremo sicuramente e ampiamente anche con Carlo Genta in A Tempo di Sport, che inizia tra 3 minuti e mezzo. mezzo insieme alla gara. Carlo, eccoci qui, ci racconti la partenza? Vi racconto la partenza, anche il Gran Premio, e in maniera molto egoistica spero che questi pronostici siano sbagliati, ma molto egoistica perché spero di riuscire a dare la notizia a Ferrari campione del mondo nel corso del programma, quindi prima delle 19. Giornalista, solo per questo. Giornalista di razza. Conduttore di razza, programma di razza, tempo di sport dalle 17 alle 19, la partenza nel corso del giornale radio delle 17, quindi restate su Radio 24 per vivere secondo dopo secondo il Gran Premio del Brasile. Grazie, un abbraccio, un saluto a Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Ciao Carlo, buon lavoro. Ciao, ciao. Ti ritroviamo anche in A Tempo di Sport. Grazie al direttore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi. Grazie ancora, direttore. A buona domenica ancora a tutti. E grazie anche a Filippo Oreggi, a Giorgio De Luca, ai Fornelli. Noi ci ritroviamo domenica prossima per parlare di un mondiale già assegnato o ancora tutto da assegnare. Vedremo. State su Radio 24, saprete tutto. Ciao, alla prossima. Sport e motori.